Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Perché si scrive? È una domanda inevitabile che ritorna sempre per gli scrittori. Si scrive perché si ha paura della morte? È possibile? O si scrive perché si ha paura della vita? Beh, anche questo è possibile. Si scrive perché ha nostalgia dell'infanzia? Non mi chiedevo. Perché il tempo è passato troppo alla svelta? O perché il tempo sta passando troppo alla svelta e noi vorremmo anche un po' fermarlo, o che andasse più piano? Si scrive per rimpianto, perché avremmo voluto fare una certa cosa e non l'abbiamo fatta? O non si scriverà invece per rimorso, perché non avremmo dovuto fare una certa cosa e invece l'abbiamo fatta? E si scrive perché si è qui ma vorremmo essere là? O si scrive perché si è andati là ma tutto sommato era meglio se si restava qui, insomma? O si scrive perché sarebbe proprio la cosa migliore sarebbe essere là dove volevamo andare, ma essere anche un po' qui dove stavamo, insomma. Si scrive perché, ecco, qui mi facevo una citazione di Baudelaire, di uno dei poèmi en prose dello Spleen di Parigi, quando dice: la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare di letto. Quello che sta vicino alla finestra pensa che guarirebbe prima se lo spostassero vicino alla stufa. E quello che sta vicino alla stufa pensa che guarirebbe prima se lo mettessero vicino alla finestra. Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, di Antonio Tabucchi, con Massimo Popolizio e Gianluigi Fogacci. Adattamento teatrale e cure registiche di Teresa Pedroni. Musica dal vivo di Isabella Mangani, alla voce e Felice Zaccheo, chitarra portoghese. La camera numero 4 dell'ospedale Saint-Louis des Français, in cui era ricoverato Pessoa, era una stanzetta modesta, con un letto di ferro, un armadio bianco e un piccolo tavolo. Crisi epatica, aveva diagnosticato il medico. Pessoa adagiò la testa sul cuscino e si passò una mano sul fianco destro, pensando che ora gli doleva meno. Per fortuna l'infermiera gli aveva appena fatto un'iniezione. Pessoa le chiese se era possibile avere una pozione di laudano, che era un sonnifero che era abituato a prendere quando la sera non riusciva ad addormentarsi. Agli amici che lo avevano accompagnato disse di lasciarlo solo, perché forse stanotte o domani avrebbe avuto visita. Tutte le lettere d'amore sono ridicole, Non sarebbero lettere d'amore se non fossero ridicole. E anche io ho scritto ai miei tempi lettere d'amore, come le altre, ridicole. Buonasera, Alvaro de Campos. Buonasera, Fernando Pessoa. Non ti aspettavo per primo. Dimmi un po', perché sei venuto? Perché se tu te ne vai abbiamo alcune cose da dirci. Io non ti sopravvivrò. Partirò con te e prima di sprofondare nel buio abbiamo alcune cose da dirci. Pessoa si alzò sui cuscini, bevve una sorsata d'acqua e chiese: che ore sono? È quasi mezzanotte. L'ora migliore per incontrarti è l'ora dei fantasmi. Ah, sei strano. Che cosa hai combinato, mio caro Alvaro de Campos? Mio caro Pessoa, noto con piacere che non mi chiami ingegnere e non mi dai del lei, che mi tratti familiarmente. Beh, è normale. Tu sei entrato nella mia vita, posso dire anzi che ti sei sostituito a me. E che sei stato tu che hai fatto finire il rapporto con la mia piccola Ofelia. L'ho fatto per il tuo bene. Quella ragazzina emancipata non poteva andare per un uomo della tua età. Sarebbe stato un matrimonio sbagliato. Poi, tutte quelle lettere d'amore che le hai scritto sono ridicole. Io credo che tutte le lettere d'amore siano ridicole. Ti ho difeso dal ridicolo. Spero che tu me ne sia grato. Tutte le lettere d'amore sono ridicole? Non sarebbero lettere d'amore se non fossero ridicole. Anch'io ho scritto ai miei tempi lettere d'amore, come le altre, ridicole, ma io l'ho amata. E lei, la piccola Ofelia, ti amava? Ha creduto di amarmi. Ci davamo degli appuntamenti. Erano sempre dei luoghi in alto, sui belvedere di questa città. Scendeva la sera e noi stavamo appoggiati ai parapetti, congetturando la vita che poi non avremmo avuto. Io l'ho amata. Di un amore ridicolo. Ah, può darsi. E tu, mio caro Alvaro de Campos? Hai mai amato tu? Io? Io ho usato l'ironia. Ho scritto un sonetto che non ti ho mai fatto vedere. Parla di un amore che ti imbarazzerà perché è dedicato a un giovinetto che ho amato e che mi ha amato in Inghilterra. Oh, ho capito. Allora dopo questo sonetto nascerà la leggenda degli amori rimossi di Fernando Pessoa e per alcuni critici sarà la felicità. Ma hai veramente amato qualcuno, Alvaro de Campos? Ho veramente amato qualcuno, caro Pessoa. Beh, allora ti assolvo. Credevo che nella tua vita tu avessi amato soltanto la teoria. No. Permetti che mi avvicini al tuo letto. Ho amato anche la vita. Nelle mie odi futuriste e furibonde ho fatto della blague. Nelle mie poesie nichiliste ho distrutto tutto, perfino me stesso. Ma sappi che nella vita anch'io ho amato. E con cosciente dolore. Pessoa alzò la mano e fece un gesto esoterico. Per colpa tua ho perso la piccola Ofelia, ma se hai amato, se hai avuto anche un solo amore, ti assolvo, perché sei una persona umana, mio caro Alvaro de Campos, e la tua umanità ti assolve. Posso fumare? Pessoa sorrise, prese dal comodino un piccolo astuccio d'argento e dopo aver offerto una sigaretta ad Alvaro de Campos ne prese una per sé, l'accese e cominciò a ricordare. E ricordando in quanto Alvaro de Campos, cominciò a declamare. Meravigliosa vita marittima moderna, tutta pulizia, macchine e salute. Tutto così ben regolato, così spontaneamente ordinato. Tutti i pezzi delle macchine, tutte le navi sui mari, tutti gli elementi della attività commerciale di esportazione, di importazione, così meravigliosamente combinati. Tutto scorre come per legge di natura, e nessuna cosa è d'intralcio all'altra. Niente ha perduto la poesia, e in più ci sono ora le macchine, anche esse con la loro poesia, e tutto il nuovo genere di vita commerciale, mondana, intellettuale, sentimentale che l'era delle macchine ha portato alle anime. Oggi i viaggi sono belli come lo erano un tempo, e una nave sarà sempre bella solo perché è una nave. Viaggiare è ancora viaggiare, e la lontananza è sempre dove è stata, in nessun luogo, per fortuna. Che nostalgia che io ho di quando ero un poeta decadente, dell'epoca in cui feci quel viaggio in transatlantico nei mari d'Oriente. Allora sarei stato capace anche di scrivere dei versi alla luna. La sera sul ponte, quando c'erano i balli a bordo, la luna era così spettacolare, era così mia che... Ma a quel tempo io ero uno stupido, facevo dell'ironia sulla vita. Non sapevo godere la vita che mi era data, e così ho perso l'occasione. Niente luna e la vita mi è sfuggita. Ho perso l'occasione e la vita mi è sfuggita. Ho cominciato a voler decifrare la realtà, come se la realtà fosse decifrabile. Ed è venuto lo sconforto. E con lo sconforto il nichilismo. Poi non ho creduto più a niente, neppure a me stesso. E oggi sono qui al tuo capezzale, come uno straccio inutile. Ho fatto le valigie per nessun luogo, e il mio cuore è ormai un secchio svuotato. Campos si mise il mantello sulle spalle, infilò il monocolo all'occhio destro, fece un rapido gesto di saluto con la mano. Caro Fernando, avevo bisogno di dirti queste cose ora che forse stiamo per lasciarci. Devo andarmene, ma verranno anche gli altri a trovarti, e a te non resta più tanto tempo. Addio. Aprì la porta, si soffermò un attimo e ripeté: addio Fernando. Forse non tutte le lettere d'amore sono ridicole. E chiuse la porta. Deixa-o. sapeva. Era notte o era già sorto il giorno. Venne l'infermiera e gli fece un'altra iniezione. Pessoa non sentiva più il dolore al fianco destro. Ora si trovava in una pace strana, come se una nebbia fosse calata su di lui. Gli altri. Ora sarebbero venuti gli altri e voleva salutarli tutti prima di andarsene. Ma un incontro gli dava ansia, quello con il maestro Caeiro. Caeiro veniva dal Ripateggio e aveva una salute così cagionevole. Beh, è vero che Caeiro era già morto, ma era ancora vivo. Anzi, sarebbe rimasto eternamente vivo in quella casetta bianca del Ribadesio, da dove guardava con occhio implacabile il passare delle stagioni, la pioggia invernale e la canicola dell'estate. Pensò, sentì bussare e apparve proprio lui, il maestro Caeiro. Alberto Caeiro indossava una giacca di velluto con un collo di pelliccia. Era un uomo di campagna. E si vedeva dai suoi vestiti. Ave maestro, morituri te salutant. Mio caro Pessoa, sono venuto a dirle una cosa. Posso avvicinarmi? Permette che le faccia una confessione. Caro Pessoa, quando lei durante la notte veniva svegliato da un maestro sconosciuto che le dettava i suoi versi, che le parlava dell'anima, ebbene, sappia che quel maestro ero io. Ero io che mi mettevo in contatto con lei dall'aldilà. Mio amato maestro, supponevo che fosse lei. Io devo chiederle scusa per averle procurato tante insonnie. Notti e notti in cui lei non ha dormito ed è rimasto a scrivere come in trance. Io provo rimorso per averle causate tanto fastidio, per aver occupato la sua anima. Beh, posso dire che lei ha contribuito alla mia opera, anzi lei ha guidato la mia mano, mi ha procurato insonnie, è vero, ma per me sono state notti feconde. È nella notte che è nata la mia opera letteraria, la mia è un'opera notturna. Però, permette che mi tolga la giacca, l'appoggio sulla spalliera posteriore del letto. Non è la sola cosa che volevo dirle. C'è un'altra cosa che vorrei confidarle prima che le distanze interstellari ci separino. Ma non so come dirglielo. Beh, me lo dica normalmente, come si dice una cosa qualsiasi. Ma me lo dica, mio caro maestro. Pessoa sorrideva mentre Caeiro si lisciava i radi capelli biondi. Io sono suo padre. Ma lo so maestro Caeiro, questo io lo so. Io ho fatto le veci di suo padre, del suo vero padre. Joaquín de Seabra Pessoa, che morì di tisi quando era un bambino. E io ho preso il suo posto. Eppure, io ho avuto una vita semplice. Ho vissuto brevemente in una casa di campagna, in compagnia di una prozia. Ho parlato solo del tempo che passa, delle stagioni, delle greggi. Sono un uomo senza istruzione, ho avuto una vita molto semplice. Lei invece ha inventato le avanguardie europee. Com'è possibile che io sia diventato suo padre e il suo maestro? Pessoa si alzò sui cuscini, respirava a fatica, tirò fuori un fazzoletto viola, si asterse la fronte delicatamente e sussurrò: la vita è indecifrabile. Mai chiedere e mai credere. Tutto è occulto. Per me lei è stato un occhio e una voce. Un occhio che descrive, una voce che insegna ai discepoli, come Milarepa o Socrate. L'ho sempre considerata mio padre. Anche nei miei sogni lei è sempre stato mio padre. Non ha niente da rimproverarsi, maestro, mi creda. Per me lei è stato veramente un padre. Il fatto è che io avevo bisogno di una guida e allo stesso tempo, come dire, di un coagulante. Non so se riesco a farmi capire. altrimenti la mia vita sarebbe andata in frantumi. Grazie a lei io ho trovato una coesione. Beh, in realtà sono io che l'ho eletta padre e maestro. Le ho portato un regalo, caro Fernando. Sono pochi versi scritti in prosa che mai pubblicherò. Ora che lei mi lascia, glieli dirò a voce. Sono la testimonianza del mio affetto per lei. Cairo prese un foglietto di tasca, avvicinò il foglio agli occhi, perché era miope, e Pessoa, in quanto Alberto Cairo, cominciò a declamare. In questi lunghi anni ho sempre guardato la luna, ma con lo sguardo nitido ho seguito il mio figlio e discepolo, perché il mio sguardo potesse essere il suo sguardo, perché la collina che separa il mio orizzonte potesse essere il suo orizzonte, modesto e magnifico. È una poesia bellissima. Io la ringrazio, maestro Cairo. Io la porterò con me nell'oltre. Lei ha scritto tante poesie al mio posto. Anch'io volevo salutarla con l'omaggio di una persona che l'ha sempre ammirata. Pessoa chiuse gli occhi per un istante. Quando li riaprì, la stanza era deserta. Gli altri, pensò. Ora sarebbero venuti gli altri. Voleva salutarli tutti prima di andarsene. Suonò il campanello per chiamare l'infermiera. Chiese che giorno era. È la notte del 28 novembre del 1935, gli rispose l'infermiera. Va da montagna a monte, cavallo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quinta e por fonte, caminhais aliados. Va da montagna, a monte, cavallo de sombra, cavaleiro monge, por penhascos pretos atrás e de fronte, caminhais secretos. No voo à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos, sem ter horizontes, caminhais libertos, caminhais libertos, caminhais libertos. Do voo à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por ímpios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinhos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, porquanto és sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos, sem ter horizontes, caminhais libertos, sem ter horizontes, caminhais. Cavalo de sombra, cavaleiro monge, porquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. barcos pretos por rios sem ponte. Caminhai sem mim. Posso entrare? Sono Riccardo Reis. Sono tornato dal mio Brasile immaginario. Mi scusi se mi siedo, ma ho fatto un viaggio in traghetto. Soffro di mal di mare. Ho avuto la nausea e non mi sento tanto bene. Mio caro Riccardo Reis, sono tanti anni che non ci vediamo, troppi anni, ma com'è cambiato? Quasi non la riconoscevo. Ma dove si era nascosto? In quale parte del Brasile? Che non sono più riuscito a mettermi in contatto con lei. Ho una cosa da confessarle, mio caro Pessoa. Io non sono mai andato in Brasile. L'ho fatto credere a tutti. In realtà ero qui, in Portogallo, nascosto in un piccolo villaggio, ad Azeitão. E mi trovavo ad Azeitão. Azeitão, si ricorda? Il formaggio di Azeitão. Azeitão? Vila Nogueira de Azeitão? Quel paesino a pochi chilometri da Lisbona, giusto dopo il Tago, dove comincia l'Alentejo, Azeitão? Azeitão. Pessoa si sollevò faticosamente sui cuscini, voltò il capo e dentro di sé sorrise. Mi sono nascosto là, in una piccola proprietà di amici. Ho passato là tutti questi anni, nascosto in una piccola casa di campagna. Davanti alla casa c'è un gelso centenario. E sotto quel gelso ho scritto tutte le mie odi pindariche, le mie poesie oraziane. E per sopravvivere facevo il medico del villaggio. Avevo i miei pazienti in tutta la Serra Arabida. Sulla targa della porta c'era scritto Riccardo Reis, medico. E tutto il villaggio conosceva il mio nome. Certo, ero monarchico, ero contro la Repubblica. Per questo avevo detto che sarei andato in esilio in Brasile. Ma era una blague. A me faceva comodo che un poeta sensista non amasse la Repubblica. E la volgarità dei repubblicani? Io ho sempre desiderato un Cesare che potesse apprezzare i miei versi. E fra i repubblicani non c'era gente preparata? No. Ecco, volevo dirle questo. Volevo svelarle il mio segreto. Io ho vissuto una vita da stoico, anche se ad Azeitão. Ah, la vita da stoici si può vivere da qualsiasi parte, mio caro Riccardo Reis. Caro Fernando Pessoa, come lei sa, io intreccio corone di fiori. In tutte le mie poesie ho intrecciato corone di fiori. Per Nera, per Lidia, dalle mie odi pindariche. Vieni con me a sederti, Lidia, in riva al fiume. Fissiamo caldamente il suo corso e impariamo che la vita passa. Bambini adulti siamo, la vita passa, niente lascia e mai ritorna. Va verso un mare remoto, presso il fato, più degli dèi lontano. E ora intreccio corone di fiori per il suo viaggio, per quando ci rivedremo dopo aver passato il gelido Stige. Accetto la sua ideale corona di fiori, mio caro Riccardo Reis, ma il suo non era un segreto, vede. Io non sono mai venuto a trovarla ad Azeitão, perché per principio non ho mai voluto abbandonare Lisbona. Per principio io non ho mai voluto viaggiare, ma ho sempre saputo che lei viveva qui a due passi. Beh, se le cose stanno così, posso accomiatarmi. Ah, la saluto e la prego, continui a vivere nel suo villaggio. Azeitão. Azeitão. E a scrivere le sue odi pindariche anche quando io non ci sarò più. Ma saranno poesie apocrife. Ma non importa, gli apocrifi non nuociono alla poesia. E la mia opera è così vasta che posso portare anche gli apocrifi. Arrivederci, mio caro Riccardo Reis. Ci vedremo oltre il nero fiume che cinge l'Averno. Era la notte del 29 novembre del 1935. Pessoa reclinò il capo sul cuscino, si addormentò e cominciò a sognare. Thank you. la sua infanzia e sentiva la voce di sua nonna Dionisia, che era morta in manicomio. Fernando, gli diceva, tu sarai come me, perché buon sangue non mente e per tutta la vita avrai me per compagnia, perché la vita è una follia e tu saprai come vivere la follia. Posso entrare, signor Pessoa? L'uomo che reggeva un vassoio fra le mani si soffermò sulla porta. Pessoa, senza occhiali e nella penombra della camera, non lo riconobbe. Chi è lei? Sono il suo amico Bernardo Soares. Ho saputo che era in ospedale e mi sono permesso di venirle a fare una visita. Le ho portato la cena. L'ho presa nella trattoria dove ci incontravamo sempre. Si tiri su, le metterò il vassoio davanti. Pessoa si tirò su, si sistemò intorno al collo il tovagliolo immacolato che Bernardo Soares gli porgeva. Che cosa mi ha portato? E alzò i coperchi di metallo che ricoprivano i piatti. Ho pensato che forse aveva voglia di fare una cena come ai vecchi tempi e mi sono permesso di scegliere io il menù. Cibi tradizionali della nostra cucina, cose semplici e squisite. Qui c'è un caldo verde, la sua minestra preferita, sono certo che le piacerà. E qui c'è della trippa alla maniera di Oporto. Gliel'ho portata perché una volta le è stata servita fredda, come un amore freddo. E lei l'ha scritto in una sua poesia, ma adesso è calda, è ancora fumante, è appena uscita dal fuoco. Mio caro Bernardo Soares, io ho una crisi epatica. Forse la trippa non è proprio il piatto che fa per me, però per cortesia ne assaggerò un pochino. Sì, sì, sì, sì, sì. Io ricordo bene quando me la servirono fredda. Ma sa, caro Soares, in quel momento non ero io. Al mio posto c'era Alvaro de Campos. Trippa alla maniera di Oporto. Un giorno in un ristorante fuori del tempo e dello spazio mi servirono l'amore come trippa fredda. Dissi delicatamente al missionario della cucina che la preferivo calda, che la trippa, che era la maniera di Oporto, non si mangia mai fredda. Si irritarono con me. Non si può mai aver ragione nemmeno al ristorante. Non mangiai, non chiesi altro, pagai il conto e me ne andai a passeggio per la strada. Chi lo sa cosa vuol dire questo? Io non lo so ed è capitato a me. So benissimo che nell'infanzia di ognuno c'è stato un giardino, privato o pubblico o del vicino. So benissimo che il fatto di giocarci dipendeva dal padrone del giardino. So che la tristezza è di oggi. So questo molte volte, ma se io chiesi amore, perché mi portarono trippa alla maniera di Oporto fredda? Non è un piatto che si possa mangiare freddo, ma me lo portarono freddo. Non mi lamentai, ma era freddo. Non si può mai mangiare freddo, ma arrivò freddo. Ma la prego, signor Soares, la mangi lei. Sono certo che oggi non ha pranzato. Effettivamente non ho pranzato. Non mi potevo permettere il lusso di pagare due pasti e ho pagato solo il suo, ragion per cui mangio molto volentieri. Mi fa venire in mente le nostre serate in cui cenavamo insieme al ristorante Pessoa. Era un ristorante modesto, dove le persone come lei non andrebbero mai. No, non è esatto. A me piacciono i ristoranti modesti. Ho sempre vissuto una vita modesta io. Ma mi dica piuttosto, pensa ancora a Samarkand? Ho imparato un po' di uzbeko. Così per divertimento, anche se non potrò mai andare a Samarkand. Ma il fatto di conoscere la lingua di quelle zone mi fa sentire più vicino alla città che ho sognato tutta la vita. E il suo principale? Il signor Vasquez? È un bravo uomo, ma come direbbe lei, è un uomo senza metafisica. Persona gentile. Mi ha persino prestato una villa Qashqai dove ho passato una settimana di vacanza. Qashqai, Qashqai. Che bel luogo. Anch'io vi ho trascorso qualche giorno, non più di due settimane. Io sto per dirgli una cosa che non ho mai rivelato a nessuno e lo confesso volentieri a lei, che è un mio amico, mio caro Soares. Io sono andato a farmi visitare alla clinica psichiatrica di Qashqai. Ed è là che io ho conosciuto Antonio Mora, il filosofo panteista. Beh, io devo dire che in quella cittadina io ho trascorso i giorni più sereni della mia vita. Sa, mio caro Soares, Antonio Mora è pazzo. Almeno ufficialmente pazzo, ma è un pazzo lucido, che ha ragionato molto sul paganesimo e sul cristianesimo. Si veste con una tunica lunga come usavano gli antichi romani, calza sandali di foggia antica e parla molto raramente, ma con me ha parlato. Ecco, mi ha detto che gli dèi torneranno, perché questa storia dell'anima unica è di un solo Dio, è una cosa passeggera che sta per finire, e quando gli dèi torneranno noi, ecco, perderemo questa unicità dell'anima e la nostra anima potrà di nuovo essere plurale come vuole la natura. Detto questo, Pessoa finì di bere la sua minestra e assaggiò un boccone di trippa fredda. Ma lo sa, caro Pessoa, che in questo ultimo anno ho sofferto molto di insonnia e tutte le mattine all'alba stavo alla finestra per spiare le gradazioni di luce sulla città e ho descritto molte albe su Lisbona. Ne sono fiero. È difficile scrivere su toni di luce, ma credo di esserci riuscito. Ho fatto delle pitture con le parole. Insomma, ho usato le parole come fossero pennelli che dipingono su una tela e la mia tavolozza erano le albe e i tramonti di Lisbona. Anche i tramonti di Qashqai sono molto belli. Ecco, proprio di questo volevo parlarle. A Qashqai ho fatto un'esperienza estetica e l'ho descritta. Nel suo libro dell'inquietudine. Sì, sì, sì. Pessoa posò la forchetta sul piatto, ancora quasi pieno, e a malincuore mise il vassoio sul comodino e in quanto Bernardo Soares cominciò a raccontare. Il mio principale, il signor Vasquez, ha avuto la generosità di farmi passare qualche giorno in una stupenda villa sul mare. Io avevo portato con me Sebastiao. Sebastiao è un pappagallo di compagnia. Non sa solo dire qualche parola, ma delle frasi intere. La villa ha un magnifico terrazzo sull'oceano. Io vi ho sistemato il trespolo di Sebastiao e così al tramonto, l'ora in cui facevo le mie pitture con le parole, parlavo con Sebastiao. Gli ho anche insegnato i primi versi della poesia che si chiama Tabaccherino. Io non sono niente. Io non sarò mai niente, non posso voler essere niente, a parte ciò ho in me tutti i sogni del mondo. Finestre della mia camera, della camera di uno dei milioni del mondo che nessuno sa chi è. E se sapessero chi è, che cosa saprebbero? Lui li ha imparati subito e così conversavamo. Io descrivevo il tramonto sulle rocce dell'oceano e lui ripeteva i versi di Tabaccherino. Io descrivevo la tenue luce rosata le nubi violacee all'orizzonte nell'ora che volge al desio. E Sebastiao mi diceva che sarebbe venuto il giorno in cui tutti gli uomini con l'anima grande avrebbero conosciuto questi miei versi a memoria e in tutte le lingue. Sebastiao non è un pappagallo, ha un'anima umana, è un oracolo. Sono sicuro che in lui rivive lo spirito di una pizzia. Sono stati giorni bellissimi. Una sera però sentivo molto la malinconia. Ma ho fatto amicizia con una persona squisita, con il signor Don Pedro de Cascais, che è un signore scapolo che fa il direttore di una banca, e una sera mi ha invitato a cena. È venuto a prendermi con la sua Chevrolet nera, tutta cromata. Pensa un po', somigliava a quella di Alvaro de Campoli. Beh, io mi ero messo il vestito della domenica. La porta al miglior ristorante di Cascais. Dalla terrazza si domina tutto il villaggio, così lei potrà descrivere la baia con tutte le luci e i villaggi di pescatori. Era un ristorante magnifico. Il maître ci ha offerto autentico champagne francese e ostriche. Io non le avevo mai mangiate, sono squisite, sembra di sorbire il mare. Allora io ho pensato di scrivere un breve testo sul gusto e sull'olfatto. Io, che scrivo soltanto testi sulla vita. E poi il signor Don Pedro ha detto al maître: «Ci porti la costa sciuaga!» Ma l'ha detto in francese: «Humor sui!» Alla maniera di Peniche. Il signor Pedro mi ha offerto un porto squisito e siamo andati a berlo in terrazza. Sotto di noi c'erano le luci della baia di Cascais. Era bellissimo. Il signor Don Pedro parlava dei suoi viaggi a Siviglia e io sognavo Sarda. Passeggiata a mare, come d'incanto si sono spente. Nella baia brillava solo qualche lumicino. Erano le luci dei pescherecci. Poi il signor Don Pedro mi ha riaccompagnato a casa. Durante il tragitto io ho parlato delle Alpi, dei tramonti, mi sentivo euforico e ho pensato: scriverò un capitolo euforico per il mio diario disforico. Sono sceso davanti agli alberi del parco, agitati dal vento, e ho detto: grazie, signor Don Pedro, ho passato una delle serate più belle della mia vita. Caro Fernando Pessoa, le porto i saluti e tutta l'ammirazione del signor Don Pedro. Grazie, caro Bernardo Suarez. Bernardo Suarez gli accomodò il lenzuolo sul petto. Signor Pessoa, temo di averla stancata. Mi scusi, forse sono stato inopportuno a venire? No, niente affatto. È stato un piacere, ma credo di dover ricevere un'altra visitina. Una persona che negli ultimi tempi ho un po' trascurato. Caro Suarez, io le faccio i migliori auguri per il suo libro dell'inquietudine e non smetta di sognare Samarcanda. Oggi sono vinto, come se sapessi la verità. Oggi sono lucido, come se stessi per morire e non avessi altra fratellanza con le cose che un commiato e questa casa e questo lato della strada diventassero come una fila di vagoni di un treno. È una partenza fischiata dal dentro della mia testa, è una scossa dei miei nervi, è uno scricchiolio di ossa nell'avvio. Oggi sono perplesso, come chi ha pensato, trovato e scordato. Oggi sono diviso tra la lealtà che devo alla tabaccheria di rimpetto come cosa reale dal di fuori e alla sensazione che tutto è sogno come cosa reale dal di dentro. Schiavi cardiaci delle stelle, abbiamo conquistato tutto il mondo prima di alzarci dal letto, ma ci siamo svegliati ed esso è opaco, ci siamo alzati ed esso è estraneo, siamo usciti di casa ed esso è la terra intera più il sistema solare, la Via Lattea e l'indefinito. Mi avvicino alla finestra e vedo la strada con una nitidezza assoluta. Vedo le botteghe, vedo i marciapiedi, vedo le automobili che passano, vedo i vivi vestiti che si intrecciano, vedo i cani che anch'essi esistono. E tutto questo mi pesa come una condanna all'esilio. Tutto questo è straniero come tutto. Ho vissuto, studiato, amato e persino creduto. E oggi non c'è accattone che io non invidi solo perché non è me. Ave o sodale, mi permetto di penetrare nei tuoi sogni. Lo riconosci il vegliardo dall'enorme barba bianca e una tunica romana lunga fino ai piedi, anch'essa bianca? Pessoa accese la luce del piccolo abat-jour sul comodino e riconobbe Antonio Mora. Gli fece cenno di venire avanti. Mora alzò la mano e disse: Fleba il fenicio, morto da 15 giorni. Dimenticò il grido dei gabbiani e il flutto profondo del mare per dirmi della tua sorte, o grande Fernando. So che ti attendono le acque della Cheronte e poi il vertice furibondo degli atomi in cui tutto si disperde e tutto si ricrea, e tu forse ritornerai nei giardini di Lisbona in quanto fiore che fiorisce in aprile, o forse come pioggia sui laghi e sulle lagune del Portogallo. E io passeggiando ascolterò la tua voce percorsa dal vento. Mio caro Antonio Mora, che piacere! E come va alla clinica psichiatrica di Gascais? Non mi racconti, noi ci siamo visti così brevemente. La diagnosi che mi hanno fatto alla clinica di Cascais è paranoia con psiconevrosi intercorrente. Ma per fortuna c'è il dottor Gama, che mi ascolta ed è una persona molto disponibile. Anche lui crede nel ritorno degli dèi. Certo. E sostiene che la follia è una condizione inventata dagli uomini per segregare la gente che dà fastidio alla società. E lei dà fastidio alla società cattolica perché predica il ritorno degli dèi. Il suo Ritorno degli dèi potrebbe essere un libro magnifico, spero sia presto pubblicato. Solo lei potrebbe aiutarmi, grande Pessoa, ma ormai anche lei sta per passare la Cheronte e io mi ritroverò solo in un asilo d'alienati senza nessuno che possa pubblicare i miei scritti. Caro Antonio Mora, tutti gli scritti che mi ha consegnato quel giorno che ci siamo visti alla clinica psichiatrica di Cascais, io li ho conservati in un baule. Si tratta di un baule pieno di gente. Ormai stanno tutti lì. Perché i personaggi fanno fatica a starmi dentro. No, stia tranquillo che il suo ritorno degli dèi non andrà perduto. E visto che oggi mi sembra di possedere delle doti divinatorie, è vero? Io posso dirle che il ritorno degli dèi verrà scoperto da un grande critico, un uomo di sensibilità e cultura che si chiama Prado Coelho. È un uomo cocciuto, che saprà decifrare la sua e la mia calligrafia. Un uomo di grande valore che, diciamo così, ci farà conoscere il mondo. Antonio Moro avanzò di un passo e fece un'ampia riverenza. Mi scusi, mio caro Pessoa. Mi sbaglio, o doveva ricoverarsi anche lei alla clinica psichiatrica di Cascais? Io non mi sono ricoverato. Io ho preferito passare qualche settimana in una casa che dà sulla baia, in Rua de Chaudat, presso una signora che si è presa cura di me. Lei mi preparava degli ottimi manicaretti, caro Antonio Moro. Si figuri che a pranzo avevo sempre pesce al forno o alla griglia, accompagnato da un vino bianco di Colares. E la sera, ma la sera, la cena era un autentico banchetto. C'era sempre una sopa lentejana, un caldo verde, e poi immagini baccalà al forno, pescadinha sdera buona bocca, e altri manicaretti squisiti. Mi avevano assegnato una camera che si affacciava sulla baia, e la sera io me ne stavo là sul terrazzo guardando la baia di Cascais e di Estoril. Ascoltavo la radio, musica ballabile o vecchie canzoni di Coimbra, e mi sono sentito felice. Un'onda nera si era abbattuta sulla mia testa. Beh, io non sapevo più che cosa fare, se considerarmi pazzo o buttarmi nel tago. Beh, in quella famiglia ho trovato un focolare. E poi c'era un bel cane nero che si chiamava Joe, intelligentissimo. A lui leggevo le mie poesie esoteriche. Quel cane, io sono sicuro, era la reincarnazione di una divinità dell'antico Egitto. Lui raspava con la zampa sul pavimento e mi dettava la misura del verso, e con quella scansione animalesca e divina io scandivo il metro delle mie poesie, trasformandole in musica. Dal terrazzo guardavo le barche dei pescatori che tornavano, sentivo le voci dei marinai che si chiamavano allegramente tra di loro, respiravo l'odore del mare, delle reti, le reti da pesca, e tutto era bello e antico. Io mi sono curato così, ho dimenticato la morte e ho ricominciato a vivere. Anch'io ho dimenticato la morte, ma perché ho letto il Paterno Lucrezio e ho capito che tutti gli atomi che ci compongono, queste particelle infinitesimali che sono il nostro corpo di ora, dopo torneranno nel cielo eterno e saranno acqua, terra, fiori, la luce che dà la vista, la pioggia che ci bagna, il vento che ci scuote, la neve candida che ci avvolge col suo manto in inverno. Noi tutti ritorneremo. Qui, sulla terra, grande Passoa, nelle innumerevoli forme che vuole la natura. E forse saremo un cane chiamato Joe. Un filo d'erba. O le caviglie di una giovane inglese che guarda stupita una piazza di Lisbona. Ma la prego, è presto per partire. Resti ancora un po' fra noi in quanto Fernando Pessoa. Caro Antonio Mora, Proserpina mi vuole nel suo regno. È ora di partire. È ora di lasciare questo, come dire, teatro delle immagini che noi chiamiamo la nostra vita. Sapesse le cose che ho visto con gli occhiali dell'anima. Ho visto i contrafforti di Orione lassù nello spazio infinito. Ho camminato con questi piedi terrestri sulla croce del sud. Ho attraversato notti infinite come fossi una cometa lucente. Gli spazi interstellari dell'immaginazione. Sono stato uomo, donna, vecchio, bambina. Sono stato la folle da grandi boulevard delle capitali dell'Occidente. E sono stato il placido Buddha dell'Oriente. Sono stato me stesso e gli altri. Tutti gli altri che potevo essere. Ho conosciuto onori, disonori, entusiasmi, sfinimenti. Ho attraversato fiumi e impervie montagne, ho guadato placide greggi e ho ricevuto sul capo il sole e la pioggia. Sono stato femmina in calore, sono stato il gatto che gioca per la strada, sono stato il sole e la luna. Mio caro Antonio Mora, vivere la mia vita è stato un po' vivere mille vite, ma sono stanco. La mia candela si è consumata. La prego, mi dia i miei occhiali. Antonio Mora si aggiustò la tunica con molta cura, prese gli occhiali sul comodino e glieli accostò sul viso. Pessoa spalancò gli occhi e le sue mani si fermarono sul lenzuolo. Erano esattamente le 20:30 del 30 novembre 1935. Brincar no passeio era o meu recreio nos tempos de então. Vivo de xadrez, sem nada nos pés, jogando peão. E na vila ao lado, já tem terteado, havia uma adega, onde se saltava, acordei e brincava. Sempre a cabra cega. Coisas que adoro já desde petis, quando ia com a bilha, da Zéfia filha, lá pro chafariz, tal como o pregão naquela garrota, vendendo figuinhos de capa rota. Na rua moro, a saudade chora. Mas mesmo acabado, na memória fica. Até a velhinha que de manhãzinha vendeu fava rica. E de tarde às vezes chamando os fregueses com voz meia morta, eu via passando o homem gritando: ferro veio à porta. coisas que adoro já desde petis. É que hoje tenho mágoa de não ir à água lá ao chafariz. Desfile de povo de que a gente gosta, pregão de varinas ao vivo da costa. Na rua onde moro, a saudade chora. Tempo tão feliz. Ho posato la maschera e mi sono visto allo specchio. Ero il bambino di tanti anni fa. Non ero cambiato per niente. E questo è il vantaggio di sapersi togliere le maschere. Si è sempre il bambino. Il passato che resta. Poi ho ripreso la maschera e me la sono rimessa. Ecco, così è meglio. Desfile de povo de que a gente gosta, pregão de varina ao viva da costa. Na rua onde moro, a saudade chora o tempo tão feliz. Con Teresa Pedroni della compagnia Diritto e Rovescio per lo spettacolo Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa. Ben trovata. Grazie. Come lo presenteresti questo lavoro? È nato come omaggio a Antonio Tabucchi, è un testo suo. Era molto affascinante la vicenda di questi ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, come lui li ha immaginati, questo poeta che Tabucchi ha introdotto in Italia, ha tradotto, ha diffuso perché non era conosciuto da noi. Ci è sembrato giusto come omaggio scegliere questo testo, perché questo fatto degli ultimi tre giorni è un po' un finale di partita rispetto pure al fatto che Antonio se n'è andato, e la vicenda che viene raccontata, questi personaggi, questi eteronimi che vanno a incontrare Fernando Pessoa, che sta in un letto di ospedale in una piccola cameretta, come scrive Antonio, una sorta di addio, l'ultimo congedo della vita, e poi c'è questo finale molto bello, che Pessoa prende i suoi occhiali, poi sale all'ultimo respiro. È poesia, ecco, questo ci ha sollecitato a metterlo in scena, ecco. Come compagnia avete un rapporto particolare con la scrittura di Tabucchi? Il primo spettacolo che abbiamo fatto era I dialoghi mancati con Roberto Erlisca, che era veramente straordinario, ha vinto il premio Lidi quando c'era Lidi in Illo Tempore, e nello stesso tempo Tabucchi aveva vinto il premio Campiello. Lo spettacolo andò benissimo e a questo punto Tabucchi, che insegnava, eccetera, era a Firenze in quel periodo, decise di venire a Roma. Io non lo conoscevo per niente, ci avevo solo parlato per telefono, a vedere lo spettacolo. Era veramente una persona straordinaria, di una comunicazione, un approccio agli altri caldissimo, semplicissimo, autentico, curiosissimo degli altri. E infatti il primo incontro è stato completamente spiazzante. Mi è venuto incontro, mi ha abbracciato, ciao, dandomi subito del tu. È stato molto contento dello spettacolo e poi da lì è cominciata una sorta di corrispondenza, diciamo. Avevo già letto diversi libri suoi, ero stata a Lisbona, perché leggendo i libri di Antonio non si può fare a meno di andare a Lisbona, assolutamente, di conoscere il Portogallo. E quindi gli ho fatto la proposta di mettere in scena un altro testo dal suo romanzo Requiem, quello che lui scrisse in portoghese, tra l'altro. E poi da lì è nato un'amicizia, ci si sentiva, si parlava, fino ad arrivare a Pereira, che lui, quando gli chiesi a Parigi, perché erano mandati a Parigi con Notturno Indiano, io gli ho detto che lo possiamo fare, e lui disse di sì, e così abbiamo messo in scena Pereira e abbiamo fatto tanti testi suoi. Mi sono assolutamente innamorata della sua scrittura, dei mondi che lui frequenta, questo altrove, questa dimensione parallela, in cui noi siamo, no? E cui percorsi circuiti misteriosi in certi momenti ci si trova, cioè se ne ha la coscienza più che altro. E poi la sua scrittura, questa limpidezza che lui ha, questa sua scorrevolezza, insomma è successo così, è un incontro molto importante, sono quei famosi casi che bisogna essere pronti a essere d'accordo con quello che il caso ti manda, no? Appunto la sincronia di cui lui parla, di essere in sincronia con il tempo, con il proprio tempo, con la propria vita. Certo, questo e quindi noi facciamo l'appuntamento ogni anno da quando lui purtroppo non c'è più, è una maniera per stare insieme a lui, con la sua letteratura, per parlare di lui, sentire le sue interviste, comunque lui è in giro per il mondo attraverso i suoi libri, continuano a ristamparlo, è tradotto in tantissime lingue, è un scrittore vivo, ecco, è vivo e fa mondo. Sono quelli che fanno mondo, che ce ne sono pochi. Facendo un passo indietro, ci racconti anche un po' dell'esperienza della compagnia? Io vengo dall'avanguardia, cioè ho lavorato con Basilico sull'Uomo senza qualità per molti anni, eccetera, eccetera. E lui amava la letteratura. E appunto l'obiettivo di Basilico era di mettere in teatro la letteratura. Io ho sempre amato la letteratura e quindi mi sono trovata molto bene con lui e su questo obiettivo mi sono mossa anch'io. Quindi abbiamo messo in scena molti testi da opere letterarie, abbiamo messo in scena Herman Hesse, Cicco della Steppa, Antonio Kröger, da Thomas Mann. Abbiamo seguito questa linea. Poi sì, anche delle cose teatrali da Thomas Bernhard, però l'obiettivo, quello che ci interessa è riuscire a tradurre in teatro la letteratura, il segreto della letteratura, le atmosfere della letteratura. E per esempio, ecco, da questo punto di vista, la scrittura di Tabucchi era molto vicina al teatro, perché lui usa moltissimo il dialogo diretto e quindi trasporla e metterla in bocca agli attori non era un'operazione difficilissima. Certo, poi bisognava capire in che atmosfera ci si trovava e quello era piuttosto difficile. Questa è un po' la nostra storia, la letteratura. Proprio rispetto a questo discorso, tornando allo spettacolo, nella trasposizione su cosa avete puntato? È stata un'accelerazione che ho fatto io nella riscrittura, perché nel testo Pessoa incontra i suoi eteronimi, che poi sarebbero questi personaggi che lui ha inventato, trovata geniale. Pessoa inventava quando erano nati, di chi erano figli, dove abitavano, insomma, ne faceva proprio dei personaggi vivi. Questi personaggi che andavano a incontrare Pessoa, negli ultimi tre giorni tornando Pessoa di Tabucchi, rimanevano così, separati, no, in qualche maniera, da Pessoa. Invece nella nostra interpretazione, a un certo punto, Massimo Popolizio, che è per il ruolo di Pessoa, diventava in certi momenti anche i suoi etnonimi. Quindi c'era questo momento, questo cortocircuito in cui lui è come se, rincontrando queste sue creature, in qualche maniera automaticamente li ripetesse, no? Ripetesse delle frasi, ripetesse dei tic. E questo è un po' il tocco che gli abbiamo dato. E poi c'era la musica portoghese, cioè alcuni frammenti che potevano essere un fado, piccole canzoni popolari, cioè che doveva essere l'idea che uno apriva una finestra e si sentiva nella strada, dove sentiva Pessoa dal suo piccolo letto di ospedale, un po' sognato, un po' reale, non si sa. E poi c'era un'immagine dietro che cambiava sul fondale bianco, che era questa finestra che all'inizio era chiusa e poi piano piano, fino alla fine, quando se ne va Pessoa, lascia questo territorio qui conosciuto e la finestra si spalanca, perché poi questa finestra è simbolica anche di Pessoa, che tutta la sua vita stava alla finestra e guardava il mondo attraverso una finestra. Ho scelto questo segno, ecco, per sintetizzare. In chiusura, per saperne di più sullo spettacolo e sulla compagnia, ci lasci dei riferimenti internet? Compagnia Diritto Rovescio su Facebook e appunto per il 25, che era il giorno della scomparsa di Tabucchi, abbiamo messo a disposizione il link dello spettacolo e anche dei frammenti di una serata che abbiamo fatto sempre appuntamento con Tabucchi diversi anni fa, e poi il podcast che abbiamo fatto proprio in questa occasione. Avremmo dovuto partecipare in streaming con il nuovo spettacolo su cui stiamo lavorando, che è Pereira, frequentare il futuro, che è una specie di rapporto tra l'immagine, tra il virtuale e il reale, legato a Fernando Pessoa. Siamo a Fernando Pessoa, a Pereira, e stiamo lavorando, poi purtroppo è diventata zona rossa e quindi non abbiamo potuto farlo, se no avremmo messo anche quello in pratica.

Drag Me Up, Queer Art Festival, prima edizione, un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Pasquali di Onda d'Urto Teatro e Carmelo di Karma B. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille. Grazie, ciao. Con Daniele Biacchessi dell'Associazione Ponti di Memoria per presentare il Crowdfunding Network creato per i progetti sulla resistenza e sulla Costituzione su Produzioni dal Basso. Daniele, ben trovato. Ciao a tutti. Ce ne parli? Beh, dunque, l'Associazione Ponti di Memoria è nata nel 2012, quindi ha 9 anni. Non ha un luogo preciso come ubicazione, è un circolo ASCII ma senza indirizzo, ma è un progetto molto più ampio sull'impegno civile, l'impegno politico, che raccoglie le adesioni dei principali artisti di vario tipo, di musica, teatro, cinema, scrittura, letteratura, poesia e molto altro ancora, che fanno dell'impegno civile e soprattutto della difesa della memoria un cavallo di battaglia. Tra i nostri iscritti, oltre a me, Gang, Cisco, Modena City Rambles, Gaetano Liguori, Massimo Priviero, Ulrico Pesce, Gabriele Vacis e centinaia di altri. Chiaro che durante questo anno di pandemia tutti i nostri progetti, che sono festival, rassegne, incontri, workshop, seminari, rassegne veramente di ogni tipo che abbiamo fatto in ogni parte d'Italia, sono tutti fermi e quindi le attività in presenza delle associazioni sono bloccate. Allora ho pensato che proprio a pochi mesi dall'inizio di quella che chiamo la settimana santa, cioè la settimana intorno al 25 aprile, si potesse lanciare un messaggio e quindi un network che fisicamente trovate nella piattaforma Produzioni dal Basso, dedicato a tutte quelle persone, a tutti quegli autori, artisti, musicisti, sezioni delle Lampi, dell'ASCI, di Libera, di Emergency, eccetera, che intendono avviare dei progetti di crowdfunding in qualche modo legati alla resistenza e ai valori scritti nella Costituzione e quindi ad un impegno civile e politico molto preciso. In questo momento abbiamo ospitato il lavoro di RAM, un'associazione di Milano che restaura tutte le lapidi dei partigiani di Milano, pensate quanti ce ne sono, migliaia, e anche delle lapidi di compagni che sono stati uccisi o dai fascisti o dalla polizia in giro per Milano, e coloro vanno in giro e restaurano e rimettono a posto queste lapidi che sono, ecco, uno di questi è questo progetto. Poi ho ospitato il crowdfunding del libro sui partigiani della Val Grande, una delle grandissime pagine della resistenza italiana, di Nico Tordini. Troverete il crowdfunding di Radio On, radio musicale di alta musica di qualità dell'Associazione Ponti di Memoria. Dal 2 aprile ci sarà il crowdfunding di Cisco per il nuovo disco, di canzoni, molte di queste impegnate e così via. Quindi l'idea è quella di mettere insieme all'interno di un network, di una piattaforma, tutte quelle produzioni che vengono realizzate anche nella stessa piattaforma o anche da altre parti, di crowdfunding, quindi di autofinanziamento, per realizzare dei progetti molto specifici. Noi dentro abbiamo raccontato che il punto centrale resta per noi la Costituzione, il faro che ci guida, e in particolar modo i progetti che riguardano la resistenza, che sono dai più ampi, da un disco piuttosto che un film, piuttosto che appunto le lapidi, piuttosto che i monumenti, i luoghi anche storici, ci sono tantissime persone che stanno rimettendo a posto luoghi storici della resistenza che sono andati veramente purtroppo a catafascio per il tempo e anche per la poca volontà certe volte delle istituzioni, e che invece si stanno prodigando a rimettere in piedi una memoria del paese. È di fatto una rete, mettiamola così, di autofinanziamento, di progetti che sono iscritti dentro comunque nei valori della Costituzione. Noi come Ponti di Memoria ovviamente non prendiamo un euro, ma perché è giusto così, A noi serve far vivere ancora l'associazione per i suoi ideali, per i suoi valori costitutivi, e quindi questo può essere un modo anche per accogliere persone e costruire una rete. Poi ovviamente ogni autore, ogni progetto è autonomo, è indipendente rispetto alla piattaforma che lo ospita, che è produzione dal basso, però va sotto il cappello, sotto il marchio di Ponti di Memoria. E ho pensato di farlo poco prima dell'inizio delle celebrazioni del 25 aprile, anche per dare un segnale alle tantissime persone che in solitaria tentano strade come quelle del crowdfunding, che sono strade molto complicate, perché come vedi, se vai dentro anche la stessa piattaforma di produzione dal basso, tantissime non riescono a raccogliere, insomma, giusti fondi per arrivare al compimento del progetto. E questo è un modo per raccoglierli tutti insieme, mostrarli e anche dargli anche una promozione, oltre che una visibilità all'interno della stessa piattaforma. In questo momento, se uno dovesse andare dentro, in produzione da basso ci sono 750 progetti, tre quarti di questi qua sono a scadenza, metà di questi qua non riusciranno ad arrivare probabilmente al compimento dell'obiettivo, altri sì, ma con degli sforzi giganteschi, altri sì, benissimo, tipo il mio sul film Il sogno alla ragione da Harlem a Black Lives Matter, ma perché gli autori dei progetti hanno intorno a loro un numero considerevole di persone che gli vogliono bene, che vogliono che i suoi progetti vadano a buon fine, ma non è così per tutti. E il problema resta sempre la visibilità in uno spazio virtuale come quello. Ecco. Quindi l'appello che faccio a te e a tutti è che chi aprirà una campagna di crowdfunding con temi che sono la resistenza, la lotta di liberazione, l'antimafia, i valori più generali della solidarietà, ecco, quello lì è uno spazio che può dargli quantomeno visibilità, almeno all'interno della stessa piattaforma. Crowdfunding Network per i progetti sulla resistenza e sulla Costituzione, un saluto e un ringraziamento a Daniele Biacchetti dell'associazione Ponti di Memoria. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie a voi! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.